La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua al nostro posto alla Rosa Purpurea per il sabato pomeriggio di Radio 24, per tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti, settimana con 8 nuove pellicole in sala, con tanto materiale di cui parlare, per cui cominciamo davvero subito con un film che arriva dal più recente Festival di Cannes. Ormai siamo quasi a quello dopo, perché all'inizio di maggio, metà maggio, ci sarà il nuovo Festival di Cannes, ma dall'ultima edizione, quella del maggio 2013, arriva nelle sale italiane il nuovo film di Arnaud Desplechin, uno dei registi più legati, diciamo così, a un cinema francese più d'autore, con una mano più sperimentale, che però da qualche film a questa parte è tornato, anzi è passato a un cinema un po' più narrativo. Questo ha fatto anche un po' gridare, se non allo scandalo, alla normalizzazione sulla Croisette. Gli sguardi erano un po' di sufficienza per questo suo nuovo film, appunto, che si intitola Jimmy P, e che è un film che racconta una storia molto particolare, peraltro anche vera, quella di un nativo americano alle prese con disturbi profondi, molto profondi, della psiche, e del suo incontro con uno psicologo ungherese che è esperto in problemi psicologici delle popolazioni indigene, diciamo così, e che cercherà in qualche modo di venirne fuori. Si instaurerà ovviamente un rapporto umano molto particolare fra i due. Sentiamo questa clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Benvenuto nel selvaggio West. Salve. Ho vissuto tra i Mojave per 2 anni e, se non le dispiace, vorrei saperne di più su di voi. Qual è il suo nome indiano? Och Kanidepo Yop. Posso chiederle che vuol dire? Tutti quanti parlano di lui. Non per offendere, ma i bianchi non ci piacciono molto. No, non mi offendo, posso capire. Quell'uomo non è un matto. E le bastano solo 2 disegni? I Blackfoot credono che i sogni rivelino il futuro. Noi crediamo invece che servano a chiarire il passato. E allora salutiamo Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris, partiamo subito con questo Jimmy P a raccontare la nostra settimana cinematografica. Come dicevo, un film che ha un po' spiazzato, ma che è anche parecchio piaciuto tutto sommato, soprattutto per la storia che racconta. Sì, il secondo film in lingua inglese di Desplechin, il quinto addirittura con Mathieu Amalric. A mio parere è un film che non è molto riuscito, perché per 2 motivi. Uno, secondo me, congenito all'ideazione del film. Quando si parla di psicanalisi e non di psicosi nel cinema in generale, spesso si rischia di fare uno spot al metodo e non si riesce a raccontare realmente ciò che accade. Qui poi ha una coppia di attori straordinaria, perché Benicio del Toro e Mathieu Amalric sono davvero molto bravi, ma sono come 2 campioni che non si passano la palla. Cioè si sfidano, sembra quasi un match tra 2 attori che cercano di far vedere l'uno all'altro quanto sono bravi, ma non riescono a dare corpo e forma al film. E non ci riesce nemmeno Desplechin, che il racconto di quest'uomo traumatizzato e di questo metodo nuovo con cui cercare di risolvere questo disturbo della personalità non riesce mai a prendere corpo, a prendere forma, ad essere realmente empatico con lo spettatore, e alla fine sembra un esercizio di stile spesso non del tutto riuscito, perché è anche abbastanza monocorde e monotono. Quindi purtroppo il buon Desplechin, a mio parere, quando decide di cambiare lingua, quando decide di allontanarsi da Truffaut, non riesce a dare il meglio di sé. Allora, questo era Jimmy P. Noi a questo punto apriamo la prima finestra della nostra puntata sul nostro gioco. Come sempre, 2 frammenti di un film che voi dovrete indovinare, dovrete capire di che film si tratta, scrivercelo alla rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere una copia in Blu-ray per i primi 2 ascoltatori che indovineranno di questo stesso film. Sentiamo. Ha un fiammifero? Sì, signora Bronson. C'è tanta gente eppure si è tanto soli. Non è così? Come fa a saperlo? Lei fuma troppo, l'ho notato. Solo le persone infelici fumano troppo. Ci sono 2 elementi che dovrebbero già, come dire, titillare i nostri cinefili. Uno è un audio evidentemente d'antan, quindi datato nel tempo, e un altro è la presenza del fumo. E quindi cominciate un po' a ragionare. Se avete indovinato di che film si tratta, la Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo e il vostro nome, cognome e indirizzo. Più tardi avremo un'altra possibilità. Tom Selznick, il pianista più brillante della sua generazione, è tornato. Il nuovo Rachmaninoff, se non soffrisse di panico. Non si possono suonare questi pezzi senza sbagliare qualche nota? Qual è il problema? Ecco, il problema che viene raccontato in questo film, Il ricatto, di cui vogliamo parlarvi adesso, è che il pianista, Elijah Wood, Signore degli Anelli, fra parentesi, il pianista è sotto tiro, e questo ricorda un po' una scena straordinaria della storia del cinema, quella dell'uomo che sapeva troppo, di Alfred Hitchcock, alla Royal Albert Hall, ricorderete, si suona, c'è un teatro pieno, ma c'è anche qualcuno nel mirino. Questa scena diventa praticamente un film per la regia di Eugenio Mira, con Elijah Wood, appunto, John Cusack nel cast, un grande pianista, Tom Selznick, che torna sulle scene dopo 5 anni di assenza, dopo una clamorosa brutta figura durante un'esecuzione di un brano particolarmente difficile. Stavolta però c'è qualcuno che lo tiene sotto tiro e gli dice: guarda che se sbagli un'altra volta le cose non finiranno bene. Le ultime 4 battute del pezzo ineseguibile. Suonale alla perfezione per la prima volta nella tua vita e uscirai da qui vivo. Se sbagli una sola nota, morirai. Che cosa vuoi da me? Abbandona il palcoscenico e lo vedrò. Chiedi aiuto e lo sentirò. Fa una qualunque di queste cose e ucciderò tua moglie. Emma. Adesso sai davvero cos'è l'ansia da palcoscenico. Boris, un thrillerone, appunto, dicevamo, hitchcockiano, nel quale Elijah Wood cerca in qualche modo di scrollarsi di dosso definitivamente le vicende del Signore degli Anelli. Elijah Wood è sicuramente la cosa migliore del film, di questo ricatto che già nel film racconta la sua trama. E il pretesto e il testo di questo film sono come il loro punto di partenza, molto labili, e questo è anche il problema del ricatto, in cui Mira si innamora della musica, si innamora dell'idea, si innamora di questa volontà di cercare sempre di stupire lo spettatore più dal basso, molto più Schumacher di Hitchcock, anche se prende spunto da Hitchcock, e da lì non si sposta mai. È un ottimo film, magari per un sabato pomeriggio senza pretese, però purtroppo le pretese le ha e quasi nessuna la mantiene. Quelle promesse che fa, quasi nessuna le mantiene. E questo per quel che concerne il ricatto. Boris, parliamo invece di un film comico italiano, Amici come noi, che riporta in scena, porta per la prima volta sul grande schermo una coppia che sta già assumendo una certa popolarità in televisione con Le Iene. Stiamo parlando di Pio e Amedeo. Onoranze funebri tecnologiche Highlander. Come cazzo è scritta Highlander? Sembra un centro scommesse. Questo dobbiamo morire. Cos'è? A Ballin si mangia il tonno. Che si mangia? La simenda. Speriamo che vada tutto bene. E vendiamola sta porcellina locale. Clicca, Pio! Ma non sono io, ma che non vedi che non sono io? Ce ne dobbiamo andare da qua. Tu non puoi stare più. Se noi giù abbiamo delle onoranze funebri particolari. E di che cifre si tratta? 30.000 euro. Ah! Ha detto no. Ha detto no. Tu ci deve dare i soldi! Sono al pappagallo? Gli tagliamo l'orecchio. Comicità spicciola, battute però scritte piuttosto bene, devo dire, per questa coppia che qualcuno, Boris, ha già soprannominato Ficarra e Zalone. È geniale, io non l'avevo ancora sentita, però è geniale come fotografia. Come geniale è stata anche la fotografia del loro produttore Valsecchi, che ha detto: mi hanno subito affascinato questi due tamarroidi, e siccome in Italia un pubblico tamarro c'è, era giusto dargli un'opportunità. C'è tantissimo nelle battute di Zalone, c'è tantissimo nella dinamica dei due, di Ficarra e Picone, soprattutto quello di Nati Stanchi, per chi se lo ricorda, ed è proprio questo però il problema: manca l'originalità, si tende ad una demenzialità troppo accentuata, c'è quel finale bollywoodiano che è anche coraggioso con i Modà a fare la colonna sonora, ma è veramente estremo. Va detto che, insomma, vi deve piacere il genere. Se conoscete Pio e Amedeo e vi fanno ridere, allora probabilmente potrà piacervi anche il film. Certo, bisogna essere coraggiosi a definirlo tale, ecco, qui non parliamo di cinema, parliamo di una serie di sketch montati più o meno bene, con una regia però mediocre e una sceneggiatura totalmente inesistente. E beh, questo è sicuramente non è il punto forte di Amici come noi, ma come avevo detto c'è sicuramente un pubblico dopo il record di Zalone che potrebbe riversarsi anche su questo film. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, seconda parte. Vi abbiamo detto un'altra commedia italiana, un altro film italiano che arriva nelle nostre sale in questa settimana piuttosto ricca, è Noi Quattro, il nuovo film da regista di Francesco Bruni, che è anche un importante sceneggiatore, grande collaboratore di Paolo Virzì, per esempio, con Xenia Rappaport e Fabrizio Gifuni nel cast, e poi una serie di giovani attori, per raccontare la storia di una famiglia, che cerca di essere appunto insieme, di essere per una volta noi quattro. Mia madre è laureata in ingegneria con tutti i voti altissimi. Mio padre invece è tipo un artista, dipinge, fa lo scultore. Ho una sorella più grande, si chiama Emma. Lei vuole fare l'attrice. I miei sono separati. Ma perché non riusciamo più a essere felici insieme noi? Ma noi chi? Noi quattro. Boris, Francesco Bruni, dicevo, da regista ha fatto anche una cosa che si chiamava Scialla qualche anno fa, che ha avuto un notevole successo e che ha dato la sensazione di un regista che sa inquadrare i rapporti interni a una famiglia, in quel caso i rapporti padre-figlio. Com'è andata questa nuova prova? Questa nuova prova è un po' deludente. Sarà che dopo un esordio di quel tipo, molto efficace sia commercialmente che autorialmente, ci si aspettava molto di più. Lui invece prende più o meno la stessa strada, raddoppia le piste narrative, perché qui, al di là del rapporto padre-figlio, c'è un rapporto familiare, un rapporto padre-figlia, un rapporto madre-figlio che viaggia parallelo in una giornata romana un po' complicata, che sono gli esami, il giorno degli esami di terza media del figlio più piccolo. E Bruni fa due errori, a mio parere: non riesce a staccarsi dal modello che aveva portato avanti con Scialla, e non riesce nemmeno a staccarsi da degli stereotipi piuttosto anacronistici della sua idea di famiglia, un'idea di famiglia che probabilmente era già vecchiotta negli anni 90, con la figlia alternativa e occupante del Teatro Valle, con una moglie che ha tratti vagamente misogini in chi la ritrae, con questo artistoide ben interpretato da Gifuni, ma che non sembra più essere aderente alla realtà. E soprattutto quello che stupisce è che Bruni, sceneggiatore straordinario, pensiamo al Capitale Umano, non riesce a dare uno spessore di scrittura al film, e questo porta il film a non decollare mai. Ha due o tre momenti in cui lo spettatore è coinvolto, anche commosso, ma sono solo estemporanee intuizioni che non riescono ad andare lungo tutta la narrazione. Quindi purtroppo diciamo che se Crucial era stato promosso con Noi Quattro, se non è bocciato è rimandato. E allora, per vedere se è rimandato a settembre, poi verrà promosso o no, noi vogliamo mandare i nostri ascoltatori però al cinema a vederlo Noi Quattro. E allora, grazie alla Rosa Purpurea, ci sarà la possibilità per i primi 5 ascoltatori che da questo momento manderanno un SMS al nostro numero 349-238-6666 di vincere 5 coppie di biglietti per andare a vedere il film Noi Quattro al cinema. Ripeto ancora, 349-238-6666 è il nostro SMS. Mettete il vostro nome, cognome, indirizzo o comunque rendetevi reperibili in qualche maniera, vi ricontatterà la nostra segreteria. I primi 5 riceveranno una coppia di biglietti per andare a vedere il film Noi Quattro al cinema. Seconda traccia del nostro game di oggi. Sicché lei è Johnny Farrell. Ho sentito parlare molto di lei. Davvero? Io non ho sentito una parola su di lei. Avete indovinato di che film si tratta? La Rosa Purpurea, @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, un grande classico della storia del cinema, una grandissima diva a interpretarlo. Scriveteci di che film si tratta, il vostro nome e cognome, appunto, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, che risolveremo la prossima settimana. Posto più popolare per i suicidi nella notte più popolare per i suicidi. Avrei dovuto immaginare che avrei trovato la fila. Ok, facciamo un accordo. Nessuno di noi si butta prima di San Valentino. È assurdo, ma mettiamolo nero su bianco. Fermi tutti, stiamo firmando dietro al tuo biglietto di addio. Bella carta, vero? E allora abbiamo ascoltato una clip del film Non buttiamoci giù di Pascal Schumey con Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul e Imogen Poots, tratto da un libro, da un romanzo di Nick Hornby. È l'ennesimo film tratto da un romanzo di Nick Hornby, che è veramente molto prolifico come scrittore, ma anche da molto molto materiale al cinema. Pensate a film come Alta Fedeltà, per esempio, come About a Boy. Allora, avete capito, quattro persone che nella notte più votata, se vogliamo, a togliersi la vita, tentano di suicidarsi, solo che c'è un certo affollamento sul grattacielo che hanno scelto, scelgono allora a quel punto, invece di provare a tramutare questa voglia di finire con la vita in voglia di vivere. Ed è un po' il tentativo che fa anche il regista Pascal Schumey, mettendo un po' in burla, un po' in commedia questo film, Boris. Pascal Schumey accetta una sfida che, insomma, hanno accettato in molti negli ultimi anni, non sempre con grandi risultati, che è quella di prendere Nick Hornby, forse lo scrittore più cinematografico degli ultimi anni, e portarlo in sala, portarlo sul grande schermo. E devo dire che l'umiltà e l'attenzione e la cura, sembra quasi più un curatore che un regista, con cui porta questo libro al cinema, è anche il segreto del fatto che Non buttiamoci giù alla fine è un film riuscito, perché cerca di farsi guidare da quella prosa divertente, allo stesso tempo anche melodrammatica, di Hornby, e il racconto dell'idea di quattro sconosciuti che si incontrano su un terrazzo in cui vogliono suicidarsi e poi decidono di darsi una seconda possibilità vivendo sei settimane insieme, rimane sempre su quel doppio binario del dramma e della burla, come dicevi tu, che funziona anche, a mio parere, perché c'è un cast molto ben riuscito, bravissimi Pierce Brosnan e Toni Collette, ottima anche Imogen Poots, e peraltro lo stesso Aaron Paul, che normalmente non brilla per carisma, riesce invece con un personaggio molto ben scritto a dare il meglio. Quindi devo dire che Non buttiamoci giù potrebbe essere anche la recensione. Non è un capolavoro, però non bisogna buttarsi giù, ecco. Ebbene, allora, questo era il cartellone cinematografico del fine settimana, le proposte in sala sul grande schermo. Passiamo al piccolo schermo, passiamo all'home video con la soluzione del game della scorsa settimana, il gioco con il quale avevamo giocato per provare a vincere il Blu-ray. Sentiamo. Quattro pirati a bordo, quattro pirati vengono verso di noi dal ponte principale. Chiudi a chiave la plancia. Sì. Ascoltate, siamo stati abbordati da quattro pirati armati. Sapete cosa fare? E allora, si trattava di Captain Phillips, un film che ha avuto anche un certo successo di critica, con l'interpretazione di Tom Hanks nei panni di questo capitano coraggioso di una nave assaltata dai pirati in epoca assolutamente moderna. Hanno indovinato e vincono quindi il Blu-ray di questo film Fabiano Rocco di Carbonate, provincia di Como, e Mara Persegona o Persegona di Parma. Saranno questi due ascoltatori a ricevere il Blu-ray di Captain Phillips, film che tra l'altro ha anche figurato fra le nomination dei recenti premi Oscar. Ne parliamo con Giulio San Giorgio della redazione di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Captain Phillips, storia vera di pirati nel 2009 con Tom Hanks che si porta addosso il peso del film e la solita capacità del regista Paul Greengrass di ricostruire la realtà ma farne anche uno spettacolo decisamente avvincente. Il Blu-ray della Sony ha un'ottima qualità audio-video, un sonoro coinvolgente, immagine dettagliata anche quando volutamente sporca e come extra un lungo approfondimento making of dal titolo Questione di categoria. E allora, questo quindi per quanto concerne Captain Phillips, il nostro game della scorsa settimana. Vi dovevamo anche la recensione del game della settimana precedente, perché per motivi di messa in onda e di lunghezza della trasmissione non eravamo riusciti a proporvela, e stavamo parlando di Sacro Gra che era stato proposto in DVD, il film che ha sorprendentemente vinto l'ultima mostra del cinema di Venezia. Sentiamo questa clip e ne parliamo. Per una casa aristocratica, diciamo. Sì, sì, abbiamo un salone grande, sì. Sì, esatto. Facciamo bed and breakfast. Ecco, questo è uno dei momenti più comici. Ce ne sono tanti all'interno del film di Rosi, ce ne sono anche di strani, di struggenti. Arriva questo film, Giulio, in DVD. Può diciamo, ripercorrere la strada del successo a sorpresa di Venezia? Sì, assolutamente. È un film che tra l'altro cerca di recuperare una tradizione nel documentario, che è quella della commedia all'italiana, quindi fa questo cortocircuito decisamente interessante. È un film che sembra veramente andare a scovare periferia brulicante e decadente romana, quel che è rimasto della commedia italiana più cupa, ma cercando di questa commedia all'interno della nostra realtà. È un cinema del reale che diverte e riflette amaramente sull'Italia. E negli extra del DVD c'è anche un bellissimo film di 50 minuti intitolato Tanti futuri possibili, in cui Gianfranco Rosi incontra, parla e viaggia con Renato Nicolini sul raccordo anulare sono 35 in realtà minuti, decisamente illuminanti. E allora, questo per quanto concerne allora Sacro Graal, il game della settimana precedente. C'è come sempre una segnalazione da fare per quanto concerne i film che trasmetteranno le televisioni nella prossima settimana, e noi ci siamo voluti soffermare su un film importante per la nostra cinematografia, quel Noi credevamo, che qualche anno fa aveva raccontato con uno sguardo, un punto di vista davvero diverso, l'unità d'Italia, la lotta per l'unità d'Italia, che va in onda su Rai Movie. Sì, va in onda domenica alle 23.05 su Rai Movie. È un film che era stato fatto in occasione dei 150 anni dell'unificazione italiana, e Mario Martone racconta il risorgimento, anche quello più oscuro, attraverso la storia di tre rivoluzionari, storia che si intreccia con le figure della storia con la S maiuscola, un affresco storico veramente potentissimo e veramente nitido, che sembra stare tra lo sceneggiato televisivo e un cinema astratto e teatrale, tra Visconti e Rossellini, tra il cinema d'opera e la didattica. Un film davvero bellissimo e imperdibile. E allora, Giulio, ricordiamo appunto l'appuntamento alle 23.05 di domenica sera su Rai Movie per chi volesse vedere Noi credevamo. Grazie agli amici di Phil TV, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, siamo arrivati alla fine della trasmissione, noi vi salutiamo sulle note della base della nostra sigla, grazie a Lorenzo Nespoli in redazione, a Peter Bescapè in regia. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, come sempre alle 16, per la Rosa Purpurea, per raccontarvi tutto il cinema che c'è.